Sono le ore 22 e 3 minuti di mercoledì 18 aprile 2018. E niente, diciamo, doveva passare un po' di tempo, devo fare chissà quali altri tentativi, quali altre prove tecniche professionali per testare microfoni migliori, per ottenere un suono migliore, e comunque non ero affatto convinto di ripartire, fino al momento di ripartire con questo podcast, intendo, fino al momento catartico inevitabile in cui quel primo episodio che ho pubblicato un paio di giorni fa della quarta serie di Pendodeliri, ho deciso di pubblicarlo, ma l'ho fatto non con l'idea di dire ok, si riparte, no, semplicemente perché volevo vedere come funzionava questa nuova web application che si chiama Anchor. Devo dire, molto carina per chiunque intenda darsi al podcasting. È tutto infinitamente più facile rispetto a 8 anni fa, anche perché poi ci pensa lui a pubblicare sulle altre directory, quelle più popolate, tipo iTunes per intenderci, dove dovreste trovare la quarta serie di Pendodeliri nel giro di 48 ore, se la approvano. Del resto hanno già approvato le prime tre, non so quale sia il criterio. Beh, però il punto è questo: io non avevo intenzione veramente di ricominciare, non l'ho promosso, praticamente non me ne frega niente, cioè è davvero più o meno lo stesso spirito di quando iniziai più di 10 anni fa, cioè un diario personale senza la ricerca di un pubblico, senza la ricerca di un audience, figuriamoci un modello di business. Non me ne frega nulla, ed è anche per questo che poi alla fine non mi sono messo a cercare un suono più pulito, un ritmo radiofonico. Alla fine è proprio questo suono imperfetto che sentite adesso, il mio suono, ed è inutile andare altrove. È un approccio forse immaturo, sicuramente molto grezzo, però è anche l'unico che mi permette di sfuggire a vincoli, regole, a dover sembrare professionale, e anche forse l'unico che riesce a restituire in modo autentico un'esperienza che poi è un'esperienza normalissima, non è un'esperienza broadcast, è la vita di una persona, tutt'altro che tra l'altro una vita interessante, cioè semplicemente un punto di vista il meno mediatico possibile. È anche una forma di esperimento, nel senso che quando siamo su Facebook, quando siamo su Twitter, molto spesso vediamo persone che pensano di parlare a un pubblico, che pensano davvero di parlare a un pubblico indefinito, quando molto spesso non stai, quando scrivi qualcosa lo scrivi giusto per fermare un pensiero o magari per mandare un messaggio a qualcuno senza esplicitarlo. È quello che succede spesso su Tumblr, per esempio, e questo podcast in realtà non è molto diverso. Non parla a un pubblico, non viene espressa una competenza. Sì, certo, fatalmente ogni tanto mi capiterà di parlare delle cose che hanno a che fare con i miei interessi, il mio lavoro, le mie passioni, il libro che ho scritto, che ancora mi dà delle belle soddisfazioni. Magari scriverò altri libri, non lo so, per il momento preferisco non pensarci, però in realtà ha molto molto più a che vedere con una vita come tante altre, e con tutte le sue inadeguatezze, con tutte le sue debolezze, le sue immaturità, e anche il modo in cui ho approcciato questa quarta serie di Pendodeliri denota tutta questa inadeguatezza e tutta questa immaturità, che forse peraltro a questo punto non è che si può più tanto correggere. Va benissimo così.